Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Prendete posto e accomodatevi. Oggi si parte per un viaggio a bordo dell'A-Train, una delle più antiche linee della metropolitana di New York. Un serpente di acciaio e cemento che attraversa da nord a sud la Grande Mela, unendo il quartiere di Harlem a nord di Manhattan con Brooklyn, più a sud, lungo il fiume Hudson. Le due anime nere di New York, unite da un filo comune che attraversa Manhattan, la zona più ricca della città, quella dallo skyline inconfondibile, quella dei colletti bianchi di Wall Street, di Central Park, dell'Empire State Building. Milioni di persone si incrociano ogni giorno sui vagoni di questa affollatissima metropolitana. Ognuna ha una storia da raccontare tra le vie di una città diventata il simbolo di una nazione sterminata. Il sogno americano si incarna nella Grande Mela e le linee della metropolitana che attraversano il sottosuolo sono vene che alimentano il cuore pulsante della città. La musica in sottofondo è Take the A-Train, il celebre pezzo con cui Duke Ellington ha sempre aperto i suoi spettacoli e che è diventato un classico della musica jazz. Questo brano ci accompagnerà attraverso il viaggio ideale del nostro magnifico destino di oggi. Un incontro importante per ogni fermata, esperienze che hanno contribuito a forgiare il carattere di una rockstar diventata anche un sex symbol della musica. Stiamo parlando di Lenny Kravitz. Sono nato a New York e sono molto orgoglioso di questo. Fin da piccolo, grazie al lavoro dei miei genitori, ho respirato l'aria del mondo dello spettacolo. E tutto ciò è stato incredibilmente stimolante per me. Il padre di Lenny è Seymour Cy Kravitz, un produttore cinematografico e televisivo di origine ebrea immigrato dall'Unione Sovietica. Sua madre è un'attrice originaria delle Bahamas, Roxy Rocker, famosa per aver interpretato il ruolo di Ellen Willis nella celebre serie televisiva I Jeffersons. I primi 10 anni della sua vita Lenny Kravitz li trascorre tra la casa dei suoi genitori nell'Upper East Side di Manhattan e la casa della nonna materna nel cuore di Brooklyn. Dei due diversi quartieri assimila tutte le caratteristiche, imparando a conoscere la frenesia di quello più ricco e la miseria di quello più povero. Frequenta i teatri della città dove sua madre recita ed è normale per il piccolo Lenny avere a che fare ogni giorno con il mondo dello spettacolo. Suo padre è un grande amante del jazz e Lenny cresce ascoltando i classici di Count Basie, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. È proprio Cy Kravitz a portare il figlio nei locali di New York per vedere dal vivo questi grandi musicisti esibirsi. Capita così che in occasione del suo 5° compleanno Lenny riceva gli auguri da una persona molto speciale che è anche il nostro primo magnifico destino di oggi. Da piccolo ho visto suonare i migliori jazzisti del mondo. E mio padre, per farmi una sorpresa, mi portò a vedere un concerto di Duke Ellington. E beh, dal momento che lui e mio padre si conoscevano, ad un certo punto, alla fine di una canzone, Duke scese tra il pubblico, si avvicinò e dopo aver dato l'attacco all'orchestra suonò Happy Birthday per me. Ragazzi, quella cosa mi mise KO. Lenny Kravitz ci ha fatto salire sulla linea A della metropolitana della sua vita. E questa è la prima fermata. Duke Ellington, il re del jazz. Una carriera lunga 60 anni attraverso il blues, il jazz, il gospel, la musica classica. Inutile sottolineare il fatto che molti musicisti e cantanti si siano ispirati ai suoi brani, tra i quali ricordiamo Caravan, Moon Indigo, In a Sentimental Mood. Anche Lenny Kravitz rimane folgorato da questo incontro. Sentire una delle orchestre più famose d'America intonare gli auguri di buon compleanno non è una cosa che capita a tutti, e Lenny si sente un prescelto. Se ciò è accaduto, questo incontro deve avere un senso, e l'unica spiegazione plausibile è che il suo destino deve avere per forza a che fare con la musica. Questa è una certezza che Lenny si porta avanti sin da bambino. Oggi la vita gli ha dato ragione. Quando Roxy Rocker termina la sua partecipazione alla serie dei Jeffersons, la famiglia si trasferisce in California, dove il padre diventa uno dei produttori più stimati di Hollywood. Certo, da quelle parti si suona tutta un'altra musica. In California c'è il sole, ci sono le belle ragazze, il surf, ma c'è anche uno stile di vita molto cool, e la musica rispecchia questo entusiasmo culturale. Accanto ai dischi dei grandi del jazz, sullo scaffale di Lenny Kravitz, appaiono quelli dei Led Zeppelin, dei Kiss, di Jimi Hendrix, dei Pink Floyd. Ero piccolo e mi sembrava di essere atterrato nel più grande parco di divertimenti del mondo. Crescendo, anno dopo anno, mi piaceva lo stile di vita spensierato della California, le ragazze, il rock and roll. Hollywood è piena di belle ragazze in cerca di una piccola parte in un film. Lenny lo sa, ma lo sa anche suo padre, che di tanto in tanto si concede qualche scappatella di troppo. Questo è uno dei motivi per cui i rapporti con lui non sono mai stati facili. Mio padre ha ferito molto mia madre Roxy, non fisicamente ma sentimentalmente, a causa delle sue amanti. Io da piccolo non riuscivo a sopportare questa cosa, e infatti me ne sono andato di casa a 15 anni per colpa di mio padre. Ci sono dei momenti nella vita in cui ci si rende conto che a volte non basta nascondersi in un parco giochi per essere felici. Così, dopo aver trascorso buona parte dell'adolescenza in California, all'ombra di Hollywood, Lenny Kravitz decide di tornare nella grande mela per inseguire la sua passione, la musica. Siamo agli inizi degli anni Ottanta, e con il nome d'arte di Romeo Blue inizia a incidere i primi dischi. Inizialmente la sua musica viene giudicata dalle case discografiche non abbastanza definita. Il fatto di non aver ancora trovato la sua dimensione musicale non gli permette di dare una connotazione ben precisa alla sua musica, e di conseguenza non riesce a trovare una casa discografica disposta a produrre un suo album. Mi dicevano che ero troppo bianco, troppo nero, troppo cinese. Dormivo in una vecchia Ford Pinto perché non avevo un soldo. Non potevo continuare così. Ad un certo punto mi resi conto che per cambiare la mia vita dovevo tornare ad essere Lenny Kravitz, anche se odiavo quel cognome perché mi ricordava mio padre. Il difficile rapporto con Cy Kravitz è una costante nella vita di Lenny. Suo padre, infatti, da un lato non fa altro che incoraggiare il figlio a seguire i suoi sogni per avere successo nella musica. Dall'altro, però, non riesce ad essere un buon marito, e questa è una cosa che Lenny proprio non riesce a perdonargli. Non siamo mai stati capaci di guardarci negli occhi. Sono stato molto legato a mia madre, e le infedeltà ripetute di mio padre mi hanno sempre toccato personalmente. Lenny è un bel ragazzo, atletico, con quel look accattivante, i lunghi dreadlock che gli coprono le spalle e accentuano le sue origini caraibiche. A contribuire alla maturazione artistica che porta all'uscita del primo disco di successo, c'è una ragazza, Lisa Bonet, l'attrice resa famosa dalla sitcom The Cosby Show. Beh, sì, Lisa L'ho conosciuta nel backstage di un concerto. Ci siamo guardati. Lei mi ha detto: mi piacciono i tuoi capelli, e io le ho risposto: a me piacciono i tuoi. E dopo neanche 2 mesi ci siamo sposati. In realtà io un po' di tempo prima avevo visto una sua foto su un giornale e avevo commentato: wow, questa è sicuramente la donna che voglio sposare. È strano, ma è andata proprio così. La A-Train ha appena fatto la sua seconda fermata. Quando Lisa Bonet incontra Lenny Kravitz, lei è già un volto conosciuto della televisione. La serie televisiva The Bill Cosby Show è una delle più seguite della TV americana. Ciao, ci vediamo. Ciao. Dove vai, Teo? Non puoi andartene ora. Perché? Ho bisogno della tua presenza per la mia ricerca. Denise, la scuola va dal lunedì al venerdì. Il sabato sono chiuso per restauro. Ha ragione, non vedi che ne ha bisogno. Per favore, Teo, dobbiamo fare una ricerca sul comportamento di una famiglia numerosa. Ho bisogno di te. Di che non hai fratelli e sei a posto. Lo senti? Io sono disposto a dire che non ho figli maschi. Grazie, sei grande. Una speciale alchimia lega i due ragazzi fin dal primo sguardo. Quando Lenny incontra Lisa nel backstage del concerto, per lui è l'avverarsi di un sogno. Ecco come Lisa Bonet ricorda quel momento. A un certo punto è successa una cosa stranissima. Quando gli ho detto che mia madre era ebrea, lui mi ha risposto subito: beh, anche mio padre lo è. Ho pensato che questa cosa fosse assolutamente insolita e al tempo stesso incantevole. Mi sono detta: ecco finalmente qualcuno che mi capisce. E ho iniziato da subito a fidarmi di lui. Ho lasciato che le nostre anime si mettessero a lavorare insieme. Siamo nel 1987, 2 anni prima l'uscita del primo album di successo di Lenny Kravitz. Passano solo 2 mesi dall'incontro tra Lenny e Lisa e, proprio come in un film, i due si sposano a Las Vegas. Di solito non ci occupiamo di storie d'amore, ma la vita di Lenny Kravitz ne è piena e ognuna di queste storie contribuisce a migliorare la sua carriera artistica. È impossibile parlare della sua attività di cantante lasciando da parte le donne che lo hanno aiutato a diventare una star. Lisa Bonet, per esempio, collabora a quasi tutti i testi del disco di debutto e firma la regia del video del singolo. Quando nel 1989 Lenny Kravitz riesce a ottenere un contratto con la Virgin ed esce il suo primo disco, Let Love Rule, il suo sound è ormai immaturo. Una miscela di rock e funk con una forte influenza della musica degli anni 60. Lenny acquista coscienza delle proprie potenzialità, lasciando finalmente scorrere la musica fuori dal suo corpo. Le donne, la carriera, il gossip. Sembra inevitabile tenere queste 3 parole una distinta dall'altra quando si parla di Lenny Kravitz. Il matrimonio con Lisa Bonet naufraga infatti dopo pochi anni, malgrado i due abbiano avuto una figlia, Zoe. La stampa attribuisce la causa della fine all'intrusione di un altro magnifico destino, la donna più famosa e potente dell'establishment musicale mondiale degli ultimi 30 anni. Cantante, attrice, produttrice, un personaggio unico il cui successo nessuno è ancora riuscito ad eguagliare. In una parola, Madonna. L'incontro tra Lenny Kravitz e Madonna avviene nel 1990, l'anno in cui esce l'album più controverso della pop star americana, criticato dall'opinione pubblica per i troppo espliciti riferimenti sessuali e per le scene di nudo che costringono i dirigenti di MTV a bandire il video della canzone Justify My Love dalla programmazione. E Madonna non ci sta e si difende in più di una occasione. Cosa vuol dire scandalo? Vuol dire vedere 2 donne che si baciano? Io non ci trovo niente di scandaloso. Il sesso fa parte della nostra vita. Il sesso è ovunque, in ogni momento di ogni giornata. E solo chi è ipocrita può negare l'evidenza. La mia canzone vuole essere un simbolo di questa libertà e credo che la gente sia abbastanza intelligente da capirlo, anche se le viene impedito di vedere il video in TV. Più chiaro di così? E indovinate un po' chi scrive per Madonna il tanto contestato brano Justify My Love. Proprio lui, Lenny Kravitz, la nostra metropolitana ha appena fatto la sua 3ª fermata. Lavorare con Madonna è una vera fortuna per qualsiasi musicista. È semplicemente un genio e condividere il lavoro di studio con lei è incredibilmente stimolante. Già, certo, si fa presto a dirlo. Anche perché la stampa scandalistica attribuisce a una relazione con la signora Ciccone la causa principale del naufragio del matrimonio tra Lenny Kravitz e Lisa Bonet. Comunque sia andata veramente, la canzone Justify My Love diventa un successo e consacra Lenny Kravitz anche come autore. Quando MTV decide di bloccare la messa in onda del video della canzone, la casa discografica lo mette in vendita e immediatamente vende oltre 500.000 copie. Io credo che più che le immagini del video sia stato proprio l'atteggiamento di MTV ad essere offensivo. Offensivo nei miei confronti e nei confronti di tutti quelli che lavorano con me. Realizzare questo disco è stato molto impegnativo e tutte le scelte fatte sono state prese solo da me e io me ne prendo il carico. Questo atteggiamento così duro ci ha costretti a vendere il video nei negozi ed è successa una cosa inaspettata. La gente ha fatto la fila per comprare un video musicale e questa è una novità assoluta nel mondo discografico. Grazie al grande successo ottenuto dal disco di Madonna, Lenny Kravitz pubblica un anno dopo il disco Mama Said, che lo consacra sulla scena musicale. Tra gli autori che collaborano ai vari pezzi, ce n'è uno che per Lenny è una vecchia conoscenza. Ma lo sai che io e Slash eravamo compagni di scuola? Già, immaginati che casino potevamo fare insieme. Siamo rimasti in contatto anche perché ci siamo messi a fare lo stesso lavoro. E la canzone che abbiamo scritto insieme è una bomba. Ancora un'altra fermata per la metropolitana di Lenny Kravitz. Il suo amico Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses, dai banchi di scuola passa ai banchi della sala di registrazione e insieme a Lenny scrive il singolo di maggior successo dell'album Mama Said, Always on the Run. Rimanete a bordo, il nostro viaggio non è ancora finito. Sulle note di Take the A-Train, il celebre pezzo di Duke Ellington, oggi stiamo facendo un viaggio in una metropolitana un po' particolare, piena di fermate, che corrispondono agli incontri che hanno contribuito a rendere magnifico il destino di una grande rock star, Lenny Kravitz. Il successo è una sensazione bellissima. Non riesci a descriverlo, ma senti che la vita è completa, perché sai di essere riuscito a raggiungere gli obiettivi che ti eri fissato. Con l'uscita di Mama Said, Lenny Kravitz ottiene un successo mondiale e si dimostra uno dei più talentuosi cantanti e autori del momento. Tra le collaborazioni che arricchiscono il disco, ce n'è una con un ragazzo con un cognome molto difficile da portare. Suo padre John è stato un musicista e lo è anche il suo fratellastro Julian. Lui deve dimostrare che la musica l'ha ereditata nel DNA. Il suo nome è Sean Lennon. Il nostro terzo magnifico destino di oggi. Quando ero un ragazzino non ho mai considerato mio padre come uno dei Beatles. Ricordo che quando vidi per la prima volta la copertina del disco Yellow Submarine, dissi a mio padre: «Ma tu eri uno dei Beatles?» E lui rispose: «Sì, certo, ma quel periodo è finito, adesso ci siamo noi e basta». Sean ha un'incredibile somiglianza col padre e questa caratteristica è sempre stata sottolineata dalla stampa. Lui non gradisce molto questo accostamento perché è sempre difficile con un padre famoso dimostrare il proprio valore, soprattutto quando fai il suo stesso lavoro. Non hai idea di quanta gente ho incontrato nella mia vita che mi abbia ripetuto quanto fossi somigliante a mio padre. E io ogni volta rispondevo nello stesso modo. E chi non lo è? Sean è cresciuto tra New York e il Giappone. Lui e Lenny Kravitz si conoscono e nutrono una stima reciproca uno per l'altro. Così capita che scrivano insieme una canzone. Per Sean, che ancora agli inizi della sua carriera è la prima volta che un suo pezzo viene suonato in un disco. Ha solo 16 anni, ma certe volte il talento è veramente nascosto nel DNA. Nel disco Mama Said c'è una canzone, All I Ever Wanted. Volete sapere com'è stata scritta? Dunque, Sean Lennon entra in studio e si mette a suonare il pianoforte, mentre il suo amico Lenny si avvicina al microfono e inizia a cantare, poi... Ah. Siamo nel 1991. Gli Stati Uniti sono impegnati da 2 anni nella guerra del Golfo. Sean Lennon, oltre alla passione per la musica, ha ereditato anche quella degli ideali di pacifismo che suo padre John ha difeso per tutta la vita. Con l'aiuto della madre Yoko Ono, riunisce sotto il nome The Peace Choir una 30 di artisti, tra cui Terence Trent D'Arby, Al Jarreau, Cyndi Lauper, Peter Gabriel, per incidere la canzone Give Peace a Chance, con lo scopo di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'inutilità della guerra. Sean vuole che sia Lenny Kravitz a riarrangiare il pezzo di suo padre, e proprio Lenny compare accanto a Sean all'inizio del video del brano. Non ho mai avuto problemi a interagire con persone famose. Le ho sempre frequentate fin da piccolo. Però, quando mi sono trovato a registrare con tutti gli altri la canzone di John Lennon, ero molto emozionato. E avete visto la mia faccia quando mi metto a ballare con Yoko Ono? Wow, che sballo! Il 1991 è un anno magico per Lenny Kravitz. La A-Train, la metropolitana della sua vita, sta per fare l'ennesima fermata. Una fermata questa volta che parte da molto lontano. Per capirlo, dobbiamo spostarci nel vecchio continente, precisamente in Francia. Parigi, 1972. In una casa nei sobborghi eleganti di Parigi nasce una bambina dagli occhi azzurri che è destinata a fare innamorare milioni di uomini in tutto il mondo. Una bambina che per scherzo inizia a cantare, poi a recitare, e diventa il volto di Chanel in un celebre spot per il profumo Coco. Il suo nome è Vanessa Paradis, ed è lei il quarto magnifico destino di oggi. Fu mio padre a iscrivermi ad un concorso canoro per bambini quando avevo solo 9 anni. Per me era tutto un gioco, uno splendido gioco. Sotto l'abile direzione del produttore Frank Langolf, nel 1987, a soli 15 anni, Vanessa Paradis conquista le classifiche di tutto il mondo col singolo Jo Le Taxi, vendendo più di 3 milioni di dischi. Il fascino ancora acerbo della giovane cantante francese incanta e scandalizza al tempo stesso, e le permette di raggiungere una notorietà che arriva anche dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti. Anche per lei il 1991 è un anno magico. Nelle televisioni di tutto il mondo, la giovane Vanessa, chiusa in una gabbia nel celebre spot di Coco Chanel, fischietta sotto lo sguardo attento di un gatto. Ma sono ben altri gli occhi puntati su di lei. Dopo avere già pubblicato 2 album rigorosamente in francese, Vanessa Paradis è pronta per compiere un salto artistico, alla ricerca della vetta delle classifiche d'oltreoceano. Un disco completamente cantato in inglese. C'è però bisogno di un autore che le tolga di dosso quella sua aria da bambina. E quel qualcuno è Lenny Kravitz. Vanessa? Wow, era bellissima. Sembrava Brigitte Bardot. E aveva anche una bella voce. Quando mi chiesero di scrivere per lei, avevo già in mente cosa farle cantare. Sin dal primo momento che l'ho incontrata. Si intitola semplicemente Vanessa Paradis, il 3° album della cantante francese, il 1° interamente in inglese. Lenny Kravitz scrive tutti i pezzi e vuole suonare tutti gli strumenti in sala di registrazione per accentuare lo stile anni 70 che si ascolta in tutta la produzione. Il singolo Be My Baby vende oltre 700.000 copie e permette a Vanessa Paradis di conquistare anche il difficile mercato discografico americano. A proposito, ci sarebbe anche la solita voce di una storia d'amore tra Lenny e Vanessa, ma ormai ci avete fatto l'abitudine, no? Di sicuro diventano grandi amici, a tal punto che, quando qualche anno più tardi la Paradis rompe con il marito Johnny Depp, indovinate chi è la prima persona che la cantante francese chiama per farsi consolare? Siamo quasi al capolinea di questo viaggio immaginario che oggi ci ha fatto percorrere la A-Train, la metropolitana di New York, attraverso le tante fermate che hanno caratterizzato la vita del magnifico destino di oggi, quello di Lenny Kravitz. Well, ho visto i Jackson 5 al Madison Square Garden quando avevo 7 anni. Era la prima volta che andavo ad un loro concerto ed erano favolosi con quei pantaloni a zampa di elefante e gli stivaletti. Quando tornai a casa cominciai a ballare per il salotto di casa con gli stivali di gomma, dicendo di essere Michael Jackson. La storia di Jacko la conosciamo tutti, inutile raccontarla, però ci piace immaginare due bambini che la prima volta che si incontrano stanno sui due lati della barricata, uno sul palco a cantare coi suoi fratelli, l'altro seduto tra il pubblico ad applaudire. Una volta diventati grandi, i due bambini si ritrovano fianco a fianco per scrivere una canzone. Io avevo scritto questa canzone per lui. L'avevo arrangiata ed ero pronto per fargliela sentire. Ci trovammo nel vecchio studio di Marvin Gaye in Sunset Boulevard. Per circa 3 giorni siamo stati lì. E Michael ha inciso alcune versioni. Siamo nel 2003. Jacko si dimostra molto simpatico e disponibile. Sono momenti di grande lavoro, ma anche di grande emozione. Michael Jackson non sa ancora che non potrà mai sentire la versione definitiva di quella canzone. La sera in cui lui morì, stavo facendo un concerto a Glasgow. Quando, dopo il primo bis, andai nel backstage e mi dissero quello che era accaduto, tornai sul palco 2 volte e alla fine annunciai al pubblico che Michael se n'era andato. Tornato nel camerino, accesi il mio computer e riascoltai la demo che avevamo preparato. Era il ritratto della sua vita. Quando Lenny Kravitz e Michael Jackson scrivono Another Day, la canzone nasce in un clima estremamente rilassato e familiare, lontano dai riflettori che Michael tanto ha odiato nella sua vita. I suoi figli erano lì. Erano molto educati e io questa cosa l'apprezzai molto, perché anche per me il rispetto tra genitori e figli è molto importante. Ci siamo messi a disegnare. Poi è arrivata anche mia figlia Zoe e si è seduta accanto a noi. E abbiamo trascorso il resto del pomeriggio senza suonare. Alla fine eravamo tutti insieme a ridere, scherzare, giocare. È un ricordo bellissimo. Nel 2010, poche settimane dopo la morte di Michael Jackson, un frammento della canzone Another Day viene messa in rete con un remix non autorizzato. Lenny Kravitz smentisce immediatamente ai microfoni di Sky UK l'uscita del singolo, anche perché l'originale della registrazione completa è in suo possesso. Come sapete, la canzone, o meglio parte della canzone, è stata messa online, ma non da me, perché la mia copia è sotto chiave dal giorno che l'abbiamo registrata. Non so quale sia lo scopo, ma la persona che l'ha messa su internet non ha niente a che fare con la canzone. La registrazione è stata uno dei momenti musicali più incredibili che abbia mai vissuto. È stata fatta da 2 persone che si rispettavano e che amavano la musica. Vorrei che la questione venisse risolta il prima possibile, perché mi piacerebbe che i fan, la gente che amava Michael, possano ascoltare il brano integralmente, come Michael ed io avremmo voluto. La Sony Music si prende carico di risolvere i problemi legali e alla fine la canzone viene pubblicata nell'album postumo Michael. Lenny Kravitz ottiene il rispetto per un amico che con lui ha condiviso dei rari momenti di serenità. Ora tutti possono sentire la canzone come è stata concepita. Siamo arrivati alla fine di un viaggio straordinario. Abbiamo toccato diverse fermate e abbiamo fatto incontri eccezionali con artisti che hanno arricchito la vita professionale di Lenny Kravitz. A questo punto ci verrebbe voglia di rimanere a bordo del treno, di sederci comodamente e ripartire per continuare questo incredibile viaggio. Il tempo non ce lo consente. The A-Train è al suo capolinea, ma la vita di Lenny Kravitz continua con nuovi incontri, nuovi amori, nuove canzoni da scrivere e da cantare. Perché la fiamma della musica non si può spegnere e anche se rimane nascosta sotto la sabbia diventa più forte di prima. Ancora una volta, fino alla prossima fermata. searching for.